Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, frauen, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like the runners in a stream. They spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, darling, eat. Eat the summer cannibals, eat, eat, eat. You eat the summer cannibals, eat, eat, eat. Buonasera a tutte da Ilaria, Valentina e Maria Grazia. Stasera riprendiamo il testo di Belux, Elogio del margine, razza, sesso e mercato culturale, col quale abbiamo parlato l'altra volta, la volta precedente, delle candide miopie, titolo della trasmissione precedente appunto. Abbiamo parlato cioè dell'incapacità lamentata dal movimento femminista nero, incapacità appunto del movimento femminista bianco di vedere e riconoscere la differenza. Differenza abbastanza evidente non solo per l'aspetto cromatico, ma per i risvolti che ha sull'esistenza delle donne nere. Continuiamo quindi a parlare di quelle che noi abbiamo chiamato per la puntata di oggi distanze di prossimità. Quelle distanze che caratterizzano le relazioni tra donne, almeno per noi, apparentemente vicine, ma spesso segnate da solchi che talvolta sembrano incolmabili. Solchi nei quali, se non si è capaci di guardare, si rischia di sprofondare. Vi ricordiamo che se volete intervenire potete scriverci all'indirizzo email connettive@gmail.com. I'm trying to tell you something about my life. Maybe give me insight between black and white. And the best thing you ever done for me is to help me take my life less seriously. It's only life after... Le relazioni tra persone di razza diversa non sono viste per nulla bene dal cinema hollywoodiano. Così come quelli lesbici, i rapporti... And lightness has a call that's hard to hear. And I wrap my fear around me like a blanket. And I sail my ship of safety till I sank it. I'm crawling on your shores. I went to the doctor. I went to the mountains. I looked to the children. Le relazioni tra persone di razza diversa non sono viste per nulla bene dal cinema hollywoodiano. Così come i rapporti lesbici, quelli misti sono destinati per il grande cinema a finire male, ma veramente male, in modo davvero tragico, talvolta incredibilmente tragico. Il messaggio è chiaro. La storia tra due donne, così come la storia tra una persona di colore ed una bianca, proprio non possono funzionare. Anzi, non devono funzionare. In questo panorama ci sono però delle eccezioni. Belux cita per esempio il film di Colin Serrault del 1989, Romuald et Juliette, film in cui la storia tra una proletaria nera ed un bianco benestante incredibilmente funziona. Colin Serrault non si limita a mettere in scena una storia d'amore interrazziale che funziona, ma va oltre, dice di più. Dice che l'amore non basta, che per poter funzionare una relazione tra persone che sono in posizioni di potere squilibrate, la persona che è nella posizione di maggior potere deve necessariamente abbandonare i suoi privilegi, mettere in discussione la propria situazione, conoscere ed apprezzare il mondo dell'altra. La protagonista di Romuald et Juliette rompe tra l'altro lo stereotipo della donna nera, così come viene disegnata nelle narrazioni cinematografiche. Non è una femme fatale, non è la ridicola suora di Sister Act, non è l'inflazionata Mammy, non è neanche l'esotica dalla pelle d'ebano. È una donna nera robusta. Eppure, nonostante gli esiti nefasti delle storie d'amore miste, il cinema sa bene come sfruttare un tema che a guardare gli incassi piace e stuzzica parecchio lo sguardo dello spettatore cinematografico. Il tabù della razza viene opportunatamente sfruttato dal marketing. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money must be funny. Mette poi a confronto due film, uno più noto al grande pubblico, La guardia del corpo, e l'altro meno, è una produzione indipendente, La moglie del soldato. La guardia del corpo è un film di Mick Jackson del 1992 e narra la storia d'amore tra una cantante nera e la sua guardia del corpo. La moglie del soldato, film del 1992 di Neil Jordan, racconta la storia d'amore tra un appartenente all'IRA e la donna, che poi si scoprirà essere un uomo biologico, compagna del soldato inglese che il primo, il membro dell'IRA, aveva tenuto prigioniero e che muore in un tragico incidente. Vediamo insieme la sua analisi. Il primo affronta i temi della classe e della razza, e l'altro della razza, del genere e della nazionalità. I due film hanno avuto un impatto diverso sulla critica. Il primo, La guardia del corpo, ha avuto delle critiche non proprio positive, il secondo invece è stato valutato positivamente. Nonostante i film siano decisamente diversi, Hux dice che entrambe sembrano concordare su un fatto, e cioè che la razza non conti, che nella trama del film sia irrilevante. In verità è l'identità razziale delle protagoniste a connotarle rispetto allo sguardo delle spettatrici, che in massa sono andate a vedere La guardia del corpo proprio perché narra della storia d'amore tra una donna nera ed un uomo bianco. Le due protagoniste dei film inoltre sono delineate in modo piuttosto stereotipato, pur ambendo a non esserlo. Sono entrambe ipersessuate, sono le classiche nere sensuali, tra l'altro forse anche prostitute, la cosa viene lasciata volutamente nel vago nei due film. Dice Hux: anche se è stato Fergus a cercarla, Dil ci mette poco a trasformarsi nella sua iniziatrice sessuale e a farsene carico. Analogamente, Marron seduce Frank Farmer, la guardia del corpo che ha appena assunto. Entrambi i film lasciano intendere l'attrattiva sessuale di queste due nere e è così intensa che due vulnerabili maschi bianchi perdono ogni volontà di resistere. Anche quando Fergus deve vedersela col fatto che Dil non è biologicamente donna. Negli Stati Uniti, all'epoca dello schiavismo, i bianchi al governo che sostenevano che i neri andavano rispediti in Africa raccolsero delle petizioni che avvertivano del pericolo dei rapporti sessuali tra gli onesti uomini bianchi e le licenziose donne di colore, chiedendo che specificamente il governo allontanasse da noi questa tentazione. Volevano che lo Stato si assumesse il controllo delle loro passioni, affinché esse si potessero scatenare. La passione incontrollata tra maschi bianchi e donne di colore non è tabù, lo diventa solo se dà origine a una relazione seria e duratura. Il film La moglie del soldato, palesemente più ambizioso, dice che la purezza nazionale non esiste più, il soldato inglese è infatti nero, che un bianco irlandese può tagliare i ponti con la sua nazione e innamorarsi di una donna nera, che poi tra l'altro si scoprirà anche essere un uomo biologico. Racconta dunque una realtà mitica in cui razza e identità nazionale, nonché sesso, non contano, operando una sorta di addomesticamento del razzismo e del colonialismo. I corpi di donne e uomini di colore diventano, dice Hooks, il luogo in cui i maschi bianchi risolvono i loro conflitti. Jody, il soldato nero, così come Dill, la sua compagna nera, sono rappresentati come soggetti in contatto con i propri sentimenti, infantili, neoprimitivi, bisognosi di genitori bianchi. I corpi neri sono dunque plasmabili dall'uomo bianco. Anche nel film La moglie del soldato, in definitiva, il messaggio è che sesso e razza non contano. Eppure i soggetti subalterni sono tutti neri, i ruoli sessuali sono ben marcati. Dill, che nel corso del film appare il personaggio forse meno convenzionale, alla fine si trasforma nella piccola donna disposta a tutto per il suo uomo. La sua aggressività, non sorprende, viene indirizzata contro l'unica donna reale, tra virgolette, del film, ovviamente bianca. Per tutto il film siamo invitati a superare le logiche identitarie. E alla fine tutto sembra ritornare al suo posto, i ruoli di genere sessisti prendono il sopravvento, dice infatti Hooks. D'un tratto, eterosessismo e stile di vita da coppietta coniugale vengono invocati come ideali alla faccia della differenza e dell'ambiguità. Abbandonate le letture complesse dell'identità, ogni cosa torna al suo posto. Non c'è da stupirsi, dunque, che gli spettatori che amano il cinema commerciale abbiano trovato accettabile questo film. In una cultura che svalorizza sistematicamente la femminilità nera, che considera utile la nostra presenza affinché serviamo agli altri, non appare sorprendente che il pubblico debba amare un film che ci reinscrive simbolicamente in questo ruolo. Dico simbolicamente perché il fatto che Dill sia in realtà un maschio nero indica che nel migliore dei mondi suprematisti, patriarcal capitalisti, imperialisti bianchi, la presenza femminile non sarebbe necessaria. Yeah. In definitiva, un film come La moglie del soldato, che ambisce ad essere anticonvenzionale, finisce per essere assolutamente conservatore. Dice Hooks: messa crudelmente, La moglie del soldato lascia intendere che i travestiti odiano e vogliono distruggere le vere donne, che i maschi bianchi eterosessuali vogliono così disperatamente una mammy nera da arrivare ad inventarsela, che i maschi bianchi sono persino disposti a rimangiarsi la loro omofobia e a entrare in relazione con un maschio di colore pur di ricevere quegli umili servizi domestici che solo una donna nera può fornire, che veri omosessuali sono dei bruti e dei picchiatori, e infine che il mondo sarebbe un luogo migliore e più piacevole se noi tutti smettessimo di articolare razza, genere e pratica sessuale e ci trasformassimo semplicemente in tante coppie bianche eterosessuali che non vanno in giro a scherzare con i cambiamenti di ruolo o le loro inversioni di identità. Non è strano, dice Hooks, che La guerra del corpo sia stato demolito dalla critica, se si considera che questo è in linea con il patriarcato capitalista suprematista bianco. Infatti la rappresentazione della femminilità nera e della negritudine, paradossalmente, è meno convenzionale delle immagini presenti nella moglie del soldato. In La guerra del corpo è la donna nera ad essere benestante ed è lui che lavora per lei, e questa inversione di ruoli mette in discussione gli stereotipi di razza, classe e genere. Nonostante il messaggio sia comunque che i rapporti interrazziali siano destinati a finire male, il film agisce sulle rappresentazioni in maniera concreta, che anche se risolve anch'esso la tensione della differenza, riconfermando lo status quo. Insomma, entrambi i film, anche se ammettono la possibilità di accettare le differenze, in definitiva seducono e tradiscono. È, secondo Belux, lo strumento di lotta per eccellenza con cui ci si può opporre ai sistemi di potere, di razza, di sesso e di classe sociale. Il linguaggio è uno strumento di lotta imprescindibile con cui dar voce e veicolare l'esperienza di pratiche di resistenza diverse e in contrasto con le narrazioni prodotte dalla cultura dominante. Il linguaggio infatti è fatto di parole, attraverso cui gli oppressi ridefiniscono loro stessi di fronte ad una cultura che impedisce loro di elaborare qualsiasi autodefinizione di loro stessi e della propria esperienza, e che scaturiscono dalla difficoltà e dalla sofferenza prodotte dal medesimo tentativo di autodefinire. Nel caso di Belux, essere donna, nera, femminista e povera, oltre che scrittrice, poeta, pensatrice, artista, significa inventare un linguaggio capace di poter esprimere tutte queste molteplici identità. Afferma, infatti, a proposito del linguaggio: per parlare della posizione da cui svolgo il mio lavoro, scelgo il familiare linguaggio della politica. Vecchi codici, vecchie parole come lotta, marginalità, resistenza. Scelgo queste parole ben sapendo che non sono né più popolari né più giuste. Le conservo insieme all'eredità politica che rappresentano, pur lavorando per cambiare ciò che affermano e per assegnare loro significati diversi, rinnovati. Creare linguaggi e spazi di resistenza vuol dire allora inventare luoghi di cultura radicale in cui coloro che provengono dalla comunità nera o non bianca del proletariato e del sottoproletariato e che frequentano le accademie e i luoghi di produzione del sapere della cultura dominante tentano di dar voce alla propria esperienza diversa, pur conservando i valori delle loro origini. Gli spazi possono essere reali o immaginari, possono raccontare, spiegare o interpretare storie. Gli spazi possono essere interrotti o trasformati dalle pratiche artistiche e letterarie. La capacità di concettualizzare alternative diventa allora la forza di quelli che vivono al margine. Belux, infatti, dice: il margine, il confine, là dove la profondità è assoluta. Trovare casa in questo spazio è difficile, ma necessario. Non è un luogo sicuro, si è costantemente in pericolo. Si ha bisogno di una comunità capace di fare resistenza. L'esperienza della segregazione razziale che Belux ha vissuto da bambina è il punto di partenza da cui lei stessa sviluppa una visione che le ha dato modo di vedere il mondo da un punto di vista diverso rispetto alle rappresentazioni dei bianchi, interpretandolo cioè non come un universo fatto di due mondi separati, i bianchi e i neri, ma come un corpo unico fatto di margine e di centro. La nostra sopravvivenza dipendeva da una crescente consapevolezza pubblica della separazione tra i due luoghi e da un sempre più diffuso riconoscersi degli individui come parte necessaria e vitale di un insieme. Il margine, quello spazio segregato, dunque, non è soltanto un luogo di privazione, ma un luogo da cui partire per ridefinire la propria posizione di oppressa, spazio utile per costruire un discorso controegemonico e in cui gli oppressi trovano un controlinguaggio. Il femminismo, l'unico movimento culturale per Belux in grado di sviluppare un discorso di spessore sulle differenze, non è riuscito ancora a darne una versione convincente che riesca a includere l'esperienza e le pratiche di lotta delle donne nere e di tutte le non bianche. Le femministe bianche dovrebbero smettere di parlare di differenze, afferma Hooks, senza dare la possibilità alle donne nere, i soggetti di questo discorso, di avere diritto di parola in merito. Le esperienze delle donne nere vengono raccontate e reinterpretate dalle donne bianche secondo il loro punto di vista, la loro visione del mondo, che è radicalmente diversa da quella delle loro compagne nere. Privando le donne nere del diritto di parola, le donne bianche pensano di dar voce ad una diversità che non è la loro, monopolizzando e colonizzando il discorso e ostacolando la ridefinizione di una soggettività femminile nera. In questo modo i termini del discorso rimangono quelli di sempre. Esiste un noi, quello delle femministe bianche, opposto ad un loro, le donne nere emarginate, un soggetto che agisce e descrive ed un soggetto che viene descritto. Un altro che non si definisce, che rimane muto e che viene di fatto ancora una volta colonizzato, afferma Hooks. L'importante non è solo parlare di differenze, ma è anche il modo e la ragione per cui si decide di parlarne. L'esperienza di cui le bianche chiedono alle nere di parlare è da sempre quella dell'oppressione, del dolore e della sofferenza, mai quella della resistenza. In questo modo le femministe bianche chiedono alle nere di parlare soltanto del loro dolore. Come può un nuovo soggetto autonomo definirsi in base alle parole e al discorso altrui e in base ad esperienze di sofferenza e di dolore? Quale forza e quale credibilità potrebbe mai pretendere di avere questo nuovo soggetto del discorso? Lo spazio creato dal discorso femminista, dice Belux, è in fondo uno spazio in cui le immagini delle donne nere sembrano non avere voce, spazio in cui le nostre parole sono invocate per servire e aiutare, spazio della nostra assenza. Sono fragili echi di protesta. Noi siamo state riscritte. Siamo altro. Se le femministe bianche non riconoscono la marginalità creata dalla razza come possibile luogo di resistenza, nello stesso modo in cui hanno rivendicato la marginalità creata dal sesso come un luogo di ridefinizione e di potere, i tentativi di includere le non bianche in un movimento coeso e forte saranno vani. Solo se le femministe bianche cercheranno di entrare nella marginalità razziale credendola un luogo di resistenza, potranno allora essere accolte come liberatrici. For women, these next two tunes are dedicated to the blacks of America, the blacks of Switzerland, the blacks of the Middle East, the blacks of Africa. And we're all very happy that Nelson Mandela is free, right? Thank you. thought that I was not political anymore. That what a mistake to think that. Four women, the story of four black women, and their different textures of hair, their different complexions, and how they feel about life. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. And my back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Capitolo intitolato Fighe bollenti in vendita, Bellux analizza lo stereotipo della sessualità delle donne nere nella società dei bianchi. Dalle sue analisi si capisce come le donne nere siano state nei secoli inserite in un contesto sessualizzato ad uso e consumo degli uomini bianchi. Bisogna considerare come la presenza dei neri nella società nordamericana delle origini abbia consentito ai bianchi di sessualizzare il loro mondo, proiettando sul corpo dei neri una narrativa della sessualizzazione dissociata dalla bianchezza. È così che nel XIX secolo la sessualità dei neri, uomini e donne, diventa marchio di devianza sessuale. Alla donna di colore che si esibiva in qualche locale in voga a Parigi non veniva rivolta che un'attenzione frammentaria. Ella è lì per intrattenere gli ospiti con la nuda immagine dell'alterità. Oggettificate come le schiave nere esposte sui banchi delle aste, mentre i padroni e sovrintendenti ne descrivono le parti che contano, vendibili, le nere, i cui corpi nudi si esibivano per i bianchi nelle occasioni mondane, non avevano presenza alcuna, erano ridotte a puro spettacolo. Della loro vita, delle loro motivazioni si sa ben poco. Le parti del loro corpo si offrivano a conferma della nozione razzista secondo cui i neri sono più simili ad animali che ad esseri umani. Negli anni 60 la donna nera nomina la sua infelicità per chiedere di essere ascoltata, di essere riconosciuta per ciò che è e cambiare così la propria situazione. Il desiderio di costruirsi una sessualità diversa da quella che è imposta dalla cultura razzista sessista la porta a domandarsi sino a che punto sia prigioniera di idee di sessualità e desiderabilità del tutto convenzionali. Mettendosi di fronte a se stessa, la donna nera prende atto di tutte le cose contro cui deve lottare per riuscire a realizzarsi. Ella deve opporsi alla rappresentazione di sé, del suo corpo, del suo essere, come merce senza valore. Bombardate da immagini che rappresentano il loro corpo come un bene usa e getta, le donne nere hanno assorbito passivamente questo modo di pensare o se ne sono difese ferocemente. Poiché nell'iconografia razzista sessista la sessualità delle nere è stata rappresentata come più libera e liberata, molte cantanti di colore hanno coltivato un'immagine che sottintende la loro disponibilità sessuale e la loro licenziosità. Che Tina Turner si sia costruita una figura pubblica altamente sessualizzata è conforme a questa idea della sessualità femminile nera. La carriera di cantante di Tina Turner si è fondata sulla costruzione di un'immagine di sessualità femminile nera che è stata fatta diventare sinonimo di sensualità selvaggia e animalesca. Stuprata e sfruttata da Ike Turner, l'uomo che ha creato questa immagine e gliel'ha imposta, da un lato soffriva le pene dell'inferno per colpa di un misogino che la dominava l'esistenza e le sessualità, e dall'altro, in una sua performance, proiettava l'immagine di una donna selvaggia, dura, sessualmente liberata. Lasciando Ike dopo vari anni di stupri coniugali e abusi fisici, Turner porta con sé l'immagine che lui ha creato. La domanda è: come e quando le donne nere riusciranno ad affermare la loro iniziativa sessuale in modi da liberarsi dai confini di un desiderio colonizzato, di un immaginario e di una pratica razzisti e sessisti? Charge of the Underground Railroad. Oh, oh, yeah. My name is Harriet. I'm in charge of the Underground Railroad. Oh, yeah. Don't be afraid, come on in, have a seat, drop your load on the Underground Railroad. Oh, yeah. Don't be afraid, come on in, have a seat, drop your load. Underground Railroad, oh yeah, the Underground Railroad, oh yeah. I'm going back to save my mother, gonna save my father who had my sister Mary. I'm gonna save her and her children too, oh yes I am. Brother, brother, keep on, keep on moving, sister, sister, follow that North Star, mother's, mother's. his quiet father. Protect us wherever you are, oh yeah. My name is Harriet, I'm in charge of the Underground Railroad. Drop your load on the Underground Railroad. Oh yeah. Don't be afraid, come on in, have a seat. Drop your load on the Underground Railroad. Your head, do you wanna die by the white man, or would you rather die by me instead? Sally and Dick run fast, see Sally run, see Sally run, see Dick run, see Dick run. Sally and Dick, Sally and Dick, Sally and Dick run fast. Risking my own life to lead my people north to freedom. I'm risking my own life to lead my people north to freedom. Come on in, have a seat, drop your load on the Underground Railroad. Oh yeah. Don't be afraid, come on in, have a seat, drop your load on the Underground Railroad. Secondo alcune analisi postmoderne del fenomeno della moda, nel tardo capitalismo il corpo è stato colonizzato e appropriato come macchina che produce, consuma se stessa. Questo spostamento culturale consente ai corpi delle donne di colore di venire rappresentati in alcuni territori del bello, a cui in altri tempi era loro precluso l'accesso, ad esempio le riviste di alta moda. Anni fa si dava per scontato che la sola presenza di donne nere nelle riviste di moda avrebbe inflitto un duro colpo agli stereotipi razzisti, secondo cui le nere non sarebbero belle. Oggi le riviste non escludono più le modelle nere, ma il modo in cui se ne servono tende a rimettere in circolo i soliti stereotipi dominanti. Le modelle dalla pelle più scura avranno più probabilità di apparire in fotografie che ne distorcono i lineamenti, mentre le modelle biraziali tendono ad apparire in immagini sessualizzate. In film europei come Mephisto e il più recente Mona Lisa, la quasi bianca donna nera è dipinta come tragicamente sessuata. In questi film le donne non possono far altro che rispondere alla realtà costruita per loro da chi ha più potere. Sono in trappola. La lotta di Mona Lisa per autodefinirsi sessualmente la porta a scegliere il lesbismo, nonostante il bianco eroe del film la desideri. Eppure la scelta di una partner del suo sesso non significa la soddisfazione sessuale, dal momento che l'oggetto del suo desiderio è una giovane tossicodipendente bianca, sempre troppo sconvolta per poter pensare al sesso. Mona Lisa la cura e la protegge. Invece di affermare la sua iniziativa sessuale, è costretta ancora una volta nel ruolo di Mimi. In un film più recente, The Virgin Machine, una bianca tedesca ossessionata dal desiderio di capire il desiderio, va in California, dove spera di trovare un paradiso di nere amazzoni. Tuttavia, giunta a destinazione e data un'occhiata alla scena lesbica, le donne di colore che incontra vengono dipinte come spregevoli, grasse e grottesche, volgari e licenziose. Il cinema contemporaneo continua a dividere le donne nere in due categorie, memis o puttane, e di tanto in tanto una combinazione delle due. Ma fortunatamente ci sono delle eccezioni. Passion of Remembrance, un film del Sankofa, propone immagini nuove ed eccitanti del corpo e della sessualità delle donne di colore. In una scena gioiosamente erotica, due giovani nere, una coppia lesbica, si mettono eleganti per uscire. Il rito della preparazione le vede ballare insieme, dipingersi le labbra, guardarsi allo specchio, esultare dei loro corpi neri. Si scuotono al ritmo di una canzone il cui ritornello ripete «Lasciamoci andare». Senza evocare le immagini di scadente sessualità colonizzata tanto gradite all'immaginario razzista sessista. Il loro piacere, suggerisce il film, nasce in un contesto erotico decolonizzato che ha le sue radici nell'impegno politico femminista e antirazzista. Quando le due donne si guardano allo specchio, mettendo a fuoco alcune specifiche parti del loro corpo, il loro è uno sguardo di apprezzamento. Il piacere e il godimento che traggono da se stesse è sotto i nostri occhi. Vedendo Losing Ground di Kathleen Collins, durante la scena del pasto che le due donne consumano insieme, si assiste al graduale affiorare di un'estetica sessuale radicale. La cinepresa va dall'una all'altra, mettendo a fuoco il colore e la grana della loro pelle, le forme dei loro corpi, quanto sia evidente in ciò che le circonda il piacere e la gioia che traggono da se stesse. Entrambe le donne esibiscono discretamente una ricca e sensuale energia erotica che non è diretta verso l'esterno, che non ha come scopo la seduzione o la cattura. Si tratta di una potente affermazione della nostra soggettività sessuale. This is our hit and run. One, two, three, four. Solo quando ci riferiamo al nostro corpo e alla nostra sessualità mettendo apprezzamento erotico, desiderio, piacere e soddisfazione al centro dei nostri tentativi di crearci una soggettività radicale, noi nere riusciamo a rappresentarci in modo nuovo e diverso, a porci come soggetti sessuali. Per farlo dobbiamo essere decise a trasgredire i limiti tradizionalmente impostici. Non dobbiamo più sottrarci al progetto critico di interrogare ed esplorare apertamente le immagini imposte ovunque alla nostra sessualità, in particolare nella cultura popolare. L'analisi femminista delle convenzionali immagini femminili ha anche un'altra giustificazione. Chissà che non ci insegni a riconoscere le incongruenze e le contraddizioni presenti nelle tradizioni tuttora vigenti della rappresentazione, a identificare i punti su cui far leva per far sentire la nostra voce, crepe smagliature attraverso cui catturare lampi di ciò che in altre circostanze sarebbe forse possibile, visione di un mondo fuori dall'ordine, un mondo di solito inaccessibile allo sguardo o a cui non si pensa. È questa senza dubbio la sfida che noi nere dobbiamo raccogliere. È indispensabile che affrontiamo le vecchie, penose rappresentazioni che hanno ridotto la nostra sessualità a un peso da sopportare, rappresentazioni che ancora oggi ci perseguitano. Dobbiamo creare uno spazio d'opposizione dove la nostra sessualità possa essere nominata e rappresentata, dove possiamo essere soggetti sessuali, senza più catene, senza più padroni. E ora passiamo alla nostra rubrica musicale. Vorremmo darvi ora delle informazioni lampo sulle canzoni che abbiamo ascoltato in questa puntata. In apertura, Money Money Money, una canzone degli ABBA e colonna sonora del musical Mamma Mia, che parla di un mondo, questo mondo, fatto per soddisfare unicamente le necessità degli uomini ricchi, un mondo in cui si può vivere divertendosi soltanto se si è ricchi. La seconda canzone era In the Morning When I Rise, delle Sweet Honey in the Rock, un gruppo di di sei cantanti afroamericane di Washington D.C., esperte di musica jazz, blues, gospel e ritmi legati alla tradizione sonora afroamericana. La canzone, a tematica spirituale, evoca i gospel religiosi della tradizione afro. La terza canzone era Dear Darkness, Adorata Oscurità, della solista britannica P.J. Harvey, nella quale la cantante offre un tributo all'oscurità, le chiede di avvolgerla e ripararla dal sole, mentre le parole si fanno sempre più scarse e le si stringono attorno al collo in una morsa. La quarta canzone, splendida, era di Nina Simone, dedicata alle donne, dal titolo Four Women. È il ritratto di figure di donne reali provenienti da paesi diversi, un'africana robusta e forte, tanto da sopportare qualsiasi dolore che le viene inflitto ogni giorno, un'asiatica nata da uno stupro di un uomo bianco su una donna asiatica, una bianca lolita, icona dell'industria del sesso, e una nera figlia di schiavi. E poi sì, Michaela con Harriet Tubman, canzone dedicata al ritratto della storica figura di Harriet Tubman, attivista statunitense afro, combattente per i diritti delle persone di colore del XIX secolo. Fu una schiava fuggita che fece circa 19 viaggi per salvare 300 amici per mezzo dell'organizzazione Ferrovia Sotterranea. Agì come convinta abolizionista della schiavitù. Durante la guerra civile svolte diverse attività che andavano dalla cura dei rifugiati a vere e proprie operazioni di intelligence. L'ultimo stacco era delle War Paint, la canzone si chiama Billie Holiday, e che è una canzone dedicata alla famosa cantante afroamericana. Vi diamo appuntamento al prossimo martedì 11 gennaio 2011 con una nuova puntata della nostra rubrica Controessenze. Intanto vi ricordiamo l'appuntamento per il prossimo martedì con le compagne del CLR, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Vi lasciamo a Mississippi Goddam di Nina Simone, buonanotte e a presto. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. And the whole damn world's made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you feel it? Sitting in jail, black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Saying go slow. Well, that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton. You're just plain rotten. Do things crazy. You're thinking it's crazy. Where am I going? What am I doing? Try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sisters, my brothers, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. nobody knows.